Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi accovacciai per osservare mio fratello. Lui prese uno strano oggetto che lì per lì mi apparve come un semplice barattolo. In realtà era una bomba a mano, una balilla. Sono Massimo, vivo a Siena, sono sposato da 29 anni, fra qualche giorno con Maria Domenica, ho 3 figli, vivo una vita serena e felice, impegnato nell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Ho ricevuto il mio regalo più bello e più desiderato 29 anni or sono. Quella che è sempre e sarà sempre mia moglie Domenica, Maria Domenica, mi fece il più grande regalo che io abbia mai ricevuto fino ad allora. Pronunciò il suo sì davanti a Dio e agli uomini, accettando di essere mia moglie. Desideravo sposarla da quando l'avevo conosciuta, 6 mesi prima. Durante i 6 mesi precedenti le difficoltà non sono state poche. La sua famiglia si opponeva al matrimonio perché sono cieco. Comunque, penso sia più bello riferire che l'ho incontrata per la prima volta alla fine di un comizio elettorale nel comune di Santa Marina, maggio dell'85. E lei decise di fidanzarsi con me 1 mese dopo, sotto una luna splendida, a Scario, o Scario. E lì ci siamo sposati, dichiarandoci amore eterno il 22 dicembre dello stesso anno. Il suo sì, adorno di tante rose rosse che avevo fatto porre in chiesa di tanti amici, è stato il mio regalo più bello. Poi mi ha dato altri 3 splendidi regali, 3 figli che riempiono la mia vita, Sandro, Sara e Giulia. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Voi siete qui e quello che vi ho appena letto è una storia nella storia di Massimo, il protagonista della puntata di oggi. Lui c'ha, come sempre, come fa Miriam chiede la foto, che è quella che vi racconterò più tardi, dopo la sua storia, prima di sentirlo al telefono, e lui ci ha inviato anche queste poche righe perché aveva sentito che volevamo dei racconti che parlavano dei regali di Natale. Però al di là di questo, al di là del regalo di Natale, raccontava di lui qualcosa di più di quello che già sapevamo, del fatto che fosse non vedente, ma del fatto ad esempio che sua moglie avesse avuto dei problemi un po' quasi shakespeariani nello sposarsi con lui. 349-238-6666. La puntata di oggi racconta una storia che forse avete già sentito. È una storia molto, molto simile a una che abbiamo mandato in onda, credo, 2 anni fa. Che dici, Paolino? Te la ricordi? Mi sa che tu non c'eri quel giorno. Era una storia proprio simile, come, ahimè, ce ne sono e ce ne sono state tantissime di storie come queste, no? Di granate, di bombe abbandonate in giro nel nostro paese, trovate da, purtroppo, spesso ragazzini che giocandoci le facevano esplodere. Sì, un paio di stagioni fa raccontavamo una storia veramente molto simile. Il fratello che gioca con una granata e il protagonista della storia che ci manda il racconto anni dopo. Questa puntata, però, oltre a fare questo, oltre a ricordare una storia che abbiamo già raccontato e che è molto comune a questo paese negli anni del dopoguerra e non solo, parla un po' anche di, parla un po' di identità, parla di quello che siamo nonostante quello che ci succede e che ci è successo nella vita. 349-238-6666. Sono quello che sono nonostante qualcosa. Flavio, ad esempio, scrive: nonostante la mia insopportabile incapacità di tenere le cose in ordine, io sono un ingegnere. Ancora Silvietta: nonostante la mia timidezza sono un'attrice. Questo è dal profilo Facebook del programma che voi siete qui, Radio 24. Edoardo: nonostante la mia avversione per il sangue, sin da quando ero un ragazzino, sono diventato un infermiere. Ecco, il fatto che noi siamo quello che facciamo, noi siamo quello che ci piace fare o che ci piacerebbe fare nonostante qualche cosa. 349-238-6666. Questa è la storia di Massimo. Tutto iniziò con lo scoppio di un residuato bellico in una piccola falegnameria del mio papà, ormai 47 anni or sono. Ero a Santa Marina, in provincia di Salerno, un ameno paesino abbarbicato e nascosto su di una collina nel golfo di Policastro. Mia madre e mia sorella si erano recate in visita a zia Mariuccia, promessa suocera di mia sorella. E nonostante le mie proteste, io ero dovuto rimanere in paese con il mio fratello di 8 anni più grande, Dante. Prima di recarci in falegnameria, andammo a comprare un mostacciolo al bar. Giunti in falegnameria, io mi accovacciai sul bancone per osservare quanto mio fratello faceva. Lui prese a completare la costruzione di una cassettina di legno, ma ad un tratto si fermò e prese uno strano oggetto tra le mani, che lì per lì mi appariva come un semplice barattolo. Noi usavamo giocare in falegnameria perché papà non la utilizzava più in quanto lavorava come carpentiere nelle ferrovie dello Stato. Giocavamo lì, mio fratello faceva tanti lavoretti con legno, anche se aveva solo 13 anni, e ci trovavamo lì tra di noi o con gli amici. E il giorno prima c'erano stati con noi 7-8 persone, se quella bomba scoppiava il giorno prima era una strage. In realtà si trattava, come hanno detto gli artificieri a seguito del sopralluogo, di una bomba a mano, una balilla. E ricordo che lui ci picchiava sopra con un martelletto piccino e poi mi sono trovato immediatamente ferito e come immerso nell'acqua e nel fumo. Chiamai subito Dante, ma non ottenni risposta. Era stramazzato al suolo, con il ventre squarciato e un braccio penzoloni. Ricordo delle voci, tra le quali quelle di mia zia, una delle mie zie, che mi gettò l'acqua. Era lì, per le galline, e quel gesto mi salvò la vita. Ecco, e qui si fermano i miei ricordi. Ho saputo dopo che Dante era morto dopo poche centinaia di metri, mentre cercavano di portarlo a un pronto soccorso. Io fui ricoverato a Maratea, con un viaggio a dir poco avventuroso, perché dopo circa 10 chilometri si dovette cambiare macchina per problemi meccanici. Lì, dopo un lungo soggiorno in sala di rianimazione, fui portato al Caldarelli di Napoli. E qui iniziò la mia lunga carriera di ricoveri ospedalieri per curare i miei occhi feriti, anche se il mio occhio destro fu enucleato praticamente subito. Molti mi chiedono dove avessimo trovato la bomba, ma in realtà questa verità la conosceva solo Dante e se l'è portata nella tomba. Io avevo 5 anni e mezzo, Dante ne aveva 13, ed è successo, sono nato nel 62, nel 67, se non mi sbaglio con i calcoli. Noi eravamo in 5, siamo rimasti in 4, perché ho 2 fratelli e una sorella, oltre a me. Lo Stato, dopo vari anni, mi ha riconosciuto come vittima civile per cause di guerra, e questo mi consente una vita più che decorosa, con una moglie splendida e 3 figli meravigliosi. Per la morte di mio fratello abbiamo invece ricevuto pochi spiccioli, che poi ci sono stati tolti, per superamento dei limiti reddituali, come se una tragedia simile si potesse misurare con le ricchezze. La mia piccola storia si conclude con un lieto fine, un matrimonio felice e una vita soddisfacente, quale dirigente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella sezione di Siena. Se si pensasse a quante di queste storie ci sono nel mondo, forse potremmo evitare qualche guerra, che ancora oggi ferisce l'intera umanità. Ed è una foto con parte della famiglia, direi, nel senso che ci sono 2 donne accanto a lui, che immagino essere sua figlia e sua moglie. Quando parlo di lui parlo di Massimo, chiaramente. Ai suoi piedi c'è un cane bellissimo, che è un cane guida, credo che sia un Labrador, adesso lo chiederemo meglio a Massimo, ma si trova soprattutto in un atrio, in una sala di una radio, perché si campeggia alle sue spalle la scritta quasi cubitale Radio Siena. Pronto Massimo, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Come stai? Bene, tutto a posto. Dove ti trovi Massimo in questo momento? Mi trovo nel mio ufficio della sezione di Siena dell'Unione Italiana Ciechi. E a Siena. Quindi stai lavorando sostanzialmente? Esatto. È un lavoro, è full time, tutto il giorno tu lavori? Praticamente sì, perché l'impegno associativo è abbastanza complesso, però non mi pesa. Una cosa che ho scelto, lo faccio con piacere. Da quanto lo fai, Massimo? Praticamente da quando avevo 18 anni. Ah. Sono entrato nell'Unione Italiana Ciechi di Torino, ancora studente, un dirigente di allora mi chiese di impegnarmi, perché mi disse: tu devi dare agli altri quello che gli altri hanno dato a te. E io da allora ho scelto di lavorare per l'associazione. Massimo, mi ricordi quanti anni hai adesso? 52, appena compiuti. Il 27 novembre scorso. Beh, auguri allora innanzitutto. Anche se ne dimostri 10 di meno dalla foto, Massimo. Sembri un ragazzino. Bene, non proprio. Io ho mandato anche un'altra foto dove c'è mia moglie. Quella che c'è nella foto Radio Siena è una collega dirigente dell'Unione Italiana. Ah, ok. Nell'altra foto c'era mia moglie. Invece. Ma quindi scusami, il cane guida non è il tuo? No, il cane guida della ragazza. È della ragazza accanto a te. A ok, sì. Perché tu non usi cane guida? Io non uso il cane guida perché mi supporta la famiglia, i volontari, faccio una vita abbastanza frenetica per potermi permettere un cane guida, soprattutto non sono una persona molto capace a gestire gli animali. Okay. Ho preferito rinunciare. Senti, quali sono le difficoltà di una persona non vedente oggi? Cioè, poi tu, tra l'altro, che sei a capo di un'associazione come l'Unione Italiana Ciechi. Le difficoltà sono più legate alle barriere che crea il mondo che non alla cecità in sé, che pure è un problema, perché è la disabilità più grave al mondo, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché la persona normale processa l'80% delle informazioni di carattere visivo, quindi capirete bene che quando certo. mancano l'80% delle informazioni ci sono dei problemi, però grazie alla tecnologia, grazie alle tecniche di riabilitazione si può vivere una vita più che decorosa se però ci sono le condizioni corrette. Invece ci sono ancora troppe barriere architettoniche, chiaro. Troppe barriere culturali soprattutto, e soprattutto le normative non sempre vengono rispettate. Massimo, scusa, torniamo invece un attimo a quasi 50 anni fa, all'epoca della storia. Innanzitutto, sì. Erano all'inizio degli anni 60 e c'erano ancora granate della Seconda Guerra Mondiale in giro? Ci sono ancora oggi, purtroppo. Non più di un anno fa sono stati feriti due ragazzi a Torino, giovanissimi, perché hanno trovato una bomba inesplosa in un terreno, gli è esplosa addosso, uno è rimasto cieco, amputato. Ci sono ancora oggi residui bellici che spesso vengono trovati da persone che non le conoscono e se esplodono certo. fanno danni, danni Senti, più irreparabili. Che ricordo hai di tuo fratello Dante? Ma eravamo, anche se avevo 8 anni più grande di me, vivevamo in simbiosi, perché era il fratello più vicino alla mia età, si giocava insieme, mi faceva da parrucchiere, giocavamo in falegnameria perché lui era bravo a fare i lavoretti di legno e lui disegnava anche molto bene. Era un fratello abbastanza nervosetto nel suo carattere, però si viveva insieme, l'ho vissuto per pochi anni purtroppo. Poi questo incidente non previsto ci ha divisi per sempre. Invece, però è un bel ricordo. Massimo, invece io vorrei andare sul tuo presente, parlando di tua moglie Maria Domenica, perché nella lettera che ci hai mandato, nella storia per Natale, che ci hai mandato per i regali di Natale, che io ho letto in realtà in apertura di questa puntata, ci racconti di questa sorta di Romeo e Giulietta, per cui i genitori di lei si erano messi di traverso, non volevano che ti sposasse. Questa è una storia molto comune tra i ciechi, quando è un uomo non vedente che tende a sposare una donna vedente, i genitori di lei spesso, o per non dire quasi sempre, si oppongono. È una sorta di problema di paura, la donna che va a fare quasi da cameriera, da sì. badante al marito, cosa del genere. Noi ci siamo conosciuti in un'altra delle mie attività della mia vita, che era quella di fare la politica. Nell'85 mi ero candidato a consigliere comunale nel mio comune di Santa Marina, in provincia di Salerno, e alla discesa del parco lei l'ha incontrata. Sì, l'ho incontrata perché mi ha chiesto le parole dei testi, delle canzoni che avevamo come inno della campagna elettorale, che erano le canzoni degli Intillimani. E quindi è nato lì. Non l'ho mollata più. Massimo, ti devo salutare, ma ti ringrazio moltissimo per la storia e per la chiacchierata. Ovviamente in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi e appello ai cittadini a stare vicino alla nostra associazione. Grazie mille. Ciao Massimo, grazie, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Gilles Dulé è un fotografo. Lui ha cominciato a lavorare nel mondo della moda a 18 anni, era giovanissimo. Ha avuto fortuna nella sua carriera. Per molti anni ha girato il mondo in compagnia di donne bellissime e di grandi gruppi rock. 10 anni fa, però, ha sentito il bisogno di staccarsi da quel mondo per raccontare qualcos'altro. Ha cominciato fotografando Nick, un ragazzo autistico che si autoferiva. La famiglia aveva parlato più volte con gli assistenti sociali, descrivendo loro le ferite, ma non avevano mai ottenuto una risposta. Allora Gilles, dopo aver guadagnato la fiducia di Nick, ottiene da lui il permesso di fotografarlo. Il risultato è che gli assistenti sociali immediatamente hanno prestato molta più attenzione al suo caso. Grazie a questa esperienza, Jill capisce che può rendersi utile al mondo attraverso il suo lavoro, attraverso la fotografia. Inizia a viaggiare e a documentare le storie che gli vengono raccontate, cercando di dare voce ai più deboli. Abbandona definitivamente il mondo della moda, si mette a fare il fotoreporter. Nel 2011 è in Afghanistan, sta seguendo dei soldati americani per raccontare la loro quotidianità, quando un gruppo di guerriglieri tende un'imboscata. Mentre scappa a piedi, salta su una mina. Degli ottimi medici gli salvano la vita, ma lui perde un braccio ed entrambe le gambe. Le prime parole, dopo l'incidente, le dice a sua sorella, che va a trovarlo in ospedale. Quando la riconosce, si toglie la maschera dell'ossigeno e le dice: «Io sono ancora un fotografo». La sua identità ha continuato, nonostante l'handicap, ad essere quella di un fotografo. E la prima foto che ha fatto dopo l'incidente è stata a se stesso. Ha ripreso a comunicare attraverso la fotografia e si è fatto un autoritratto. Ha voluto fotografarsi partendo dal presupposto che le statue greche, lui dice, non le consideriamo amputate, nonostante abbiano perso braccia e gambe. Ha dato al suo lavoro un nuovo senso, una nuova direzione. Quando il fotografo fa uno scatto in una zona calda, dice lui, si sente sempre un avvoltoio, perché l'istinto lo spingerebbe a fare tutt'altro. Al fotografo sembra sempre di fare qualcosa di sbagliato. Invece adesso, dice dopo l'incidente, riconoscono tutti gli altri, nel mio corpo devastato, una vittima. Capiscono meglio che anche noi rischiamo la vita per raccontare le loro storie e si fidano più facilmente. L'incidente, secondo Dooley, lo ha migliorato come uomo e come fotografo. Dopo poco più di un anno dall'incidente ha ripreso a lavorare in Libano e in Giordania e nel 2012 è tornato in Afghanistan. Ha saputo trasformare una disgrazia in una possibilità, spinto dalla voglia di mettere in pratica la parola più in voga degli ultimi anni: condividere. E alla fine, grazie alla storia di Massimo, ho capito che, primo, non esisto niente di più vigliacco di una mina antiuomo. Secondo, sopravvivere a una tragedia spesso rende migliori. Terzo, in un anno, in Italia, in media, si eseguono 4.000 bonifiche, 11 al giorno. Quarto, di conseguenza, che ci piaccia o no, viviamo le nostre vite sopra una polveriera. E quinto, le armi saranno anche diventate intelligenti, però chi le usa è sempre e comunque un pirla. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Se volete sapere qualcosa di più di Gilles Dooley, credo, spero di pronunciarlo bene, andate sul suo sito che si chiama gilesdooley.com. Ci sono varie cose, ci sono chiaramente le sue fotografie, c'è la fotografia di cui vi ho parlato prima, quella che lui si è scattato a se stesso dopo l'incidente, e tra le varie cose ci sono un suo documentario che si chiama The Invisible People, un documentario che ha girato, credo, l'anno scorso, sì, no, addirittura quest'anno, in Siria, per cui si vede lui che cammina con delle protesi e intervista, incontra dei profughi siriani. E poi c'è un TED, sapete il TED, quegli incontri, TED Talk, quelli per cui viene chiamata una persona che ha fatto, a cui è successa una cosa particolare, e viene chiamata a fare uno speech, un discorso che non duri più di 18 minuti. C'è un TED, state tranquilli, lo trovate con i sottotitoli in italiano, perché so che spaventa delle volte, ma è tutto tradotto. Ed è divertente il modo in cui lui comincia. Lui è su una carrozzina, ha l'unica mano che funziona, con cui tiene questo telecomando, con cui evidentemente manda delle slide, e dice: quando ho parlato con un'amica che ha fatto uno speech, che ha fatto un discorso qui a un TED, lei mi ha detto: ero molto tranquillo fino a che non sono salita sul palco e ho visto il countdown dell'orologio che partiva da meno 18 e andava a zero, e mi è sembrato il timer di una bomba e sono andata in panico. E lui apre dicendo: ecco, forse questa era la cosa che meno al mondo mi serviva in un momento come questo. Lui è un bel personaggio, andatevelo a cercare. Io ringrazio tutti quelli che hanno, anche quelli che hanno scritto. È arrivato un bel messaggio di Claudia, chiaramente a proposito della storia di oggi. Dice: nonostante abbia perso un fratello quando ero una ragazzina, mi sento sorella degli amici più cari che ho. Grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Mauro Pescio e grazie ovviamente a Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Massimo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Massimo, vivo a Varese, La storia di lunedì è la mia e parla di tre adolescenti appassionati di pesca subacquea che una notte decidono di andare ad immergersi su una secca lontana da terra. Questa è la mia storia e io sono qui.